La parte di Guermantes, secondo, capitolo primo. Malattia della nonna, malattia di Bergotte, il duca e il medico, declino della nonna, la sua morte. Riattraversammo Avenue Gabriel tra la folla della gente che stava passeggiando. Feci sedere la nonna su una panchina e andai a cercare un fiacre. Lei, di cui m'ero sempre sforzato di cogliere i sentimenti per giudicare anche la più insignificante delle persone, mi era divenuta adesso inaccessibile, era ormai parte del mondo esterno e mi vedevo costretto a tacerle quel che pensavo delle sue condizioni, a tacerle la mia inquietudine più che a un qualsiasi passante. Non avrei potuto parlargliene se non con la minima confidenza ispiratami da un'estranea. Mi aveva restituito i pensieri, i dispiaceri che, sin dall'infanzia, le avevo consegnati una volta per tutte. Non era ancora morta. Ero già solo. E persino quelle sue allusioni ai Guermantes, a Molière, ai nostri discorsi sul piccolo clan, sembravano prive di fondamento, immotivate, fantastiche, perché giungevano dal niente di quella stessa creatura che domani, forse, non sarebbe più esistita, per la quale non avrebbero avuto più alcun senso. Da quel niente, incapace di concepirle, che la nonna ben presto sarebbe stata. «Signore, non per dire, ma non avete fissato nessun appuntamento con me, non siete in lista, e poi non è oggi il giorno in cui ricevo». Avrete pure il vostro medico. Non posso scavalcarlo a meno che non mi faccia chiamare per un consulto. È una questione di deontologia. Mentre facevo segno a un fiacre, avevo incontrato il famoso professor E, amico o quasi di mio padre e di mio nonno, e comunque loro conoscente, che abitava in Avenue Gabriel e, colto da un'improvvisa folgorazione, l'avevo bloccato proprio nel momento in cui rincasava, pensando che, forse, avrebbe potuto dare qualche prezioso consiglio per la nonna. Ma il professore, che aveva premura, dopo aver ritirato la posta, voleva congedarmi e per riuscire a parlargli dovetti seguirlo nell'ascensore, dove mi pregò di lasciare a lui la manovra delle manopole. Era una sua mania. «Ma, signore, non vi chiedo di ricevere la nonna. Dopo quello che vi dirò, capirete bene che non è in grado di venire. Vi chiedo invece di passare fra una mezz'ora a casa nostra, dove nel frattempo sarà rientrata». «Passare a casa vostra? No, no, signore, non ci pensate nemmeno. Sono invitato a pranzo dal ministro del commercio e prima devo fare una visita. Devo cambiarmi immediatamente. Per colmo di sfortuna, il mio abito da sera si è strappato e l'altro non ha gli occhielli per le decorazioni. Vi prego, usatemi la cortesia di non toccare le manopole dell'ascensore. Non siete pratico, ci vuole prudenza in queste cose. Questa faccenda degli occhielli mi farà fare ancora più tardi. E va bene, per amicizia nei confronti della vostra famiglia, se vostra nonna può venire subito, la riceverò. Ma vi avverto che al massimo le concederò un quarto d'ora, non un minuto di più». Io stavo già scattando, prima ancora d'essere uscito dall'ascensore che il professor Re aveva messo personalmente in moto per riportarmi a pian terreno, non senza guardarmi con diffidenza. Siamo soliti dire che l'ora della morte è incerta, ma quando lo diciamo ci rappresentiamo quell'ora in uno spazio vago e lontano. Non pensiamo che abbia qualcosa a che vedere con la giornata che stiamo vivendo e possa significare che la morte o il suo primo parziale impossessarsi di noi, dopo il quale non ci lascerà mai più, potrà verificarsi in questo stesso e così poco incerto pomeriggio, il cui impiego abbiamo preventivamente programmato ora per ora. Teniamo alla nostra passeggiata per accumulare, in un mese, la necessaria quantità d'aria buona. Abbiamo esitato sulla scelta del cappotto da indossare, del cocchiere da far venire. Siamo in carrozza. La giornata si stende intera davanti a noi, breve perché vogliamo rincasare in tempo per ricevere un'amica. Ci piacerebbe che il tempo, domani, fosse altrettanto bello. E non sospettiamo che la morte che camminava dentro di noi su un altro piano, ha scelto proprio questo giorno per entrare in scena, tra pochi minuti, più o meno nell'istante in cui la vettura arriverà ai Champs-Élysées. Forse chi è ossessionato dal terrore della singolarità tipica della morte troverà un che di rassicurante in quel genere di morte, in quel genere di primo contatto con la morte, perché essa vi assume un'apparenza nota, familiare, quotidiana. C'è stata prima una buona colazione e si è usciti di casa esattamente come le persone sane. Al suo primo attacco si sovrappone un ritorno in vettura scoperta. In fin dei conti, per quanto la nonna stesse male, in parecchi avrebbero potuto dire che alle 6, quando lasciammo i Champs-Élysées, l'avevano salutata mentre passava, con un tempo magnifico, dentro una vettura scoperta. Le Grandin, che stava andando verso Place de la Concorde, si fermò stupito, togliendosi il cappello. Io, non ancora staccato dalla vita, chiesi alla nonna se avesse risposto al suo saluto, ricordandole quanto fosse suscettibile. Giudicandomi, certo, alquanto fatuo, lei alzò la mano come per dire: «Cosa vuoi che conti? Non ha nessuna importanza». Sì, qualche minuto fa, mentre cercavo un fiacre, si sarebbe potuto affermare che la nonna era seduta su una panchina in Avenue Gabriel e, poco dopo, che era passata in una vettura scoperta. Ma era davvero così? La panchina, per starsene ferma in un viale, pur essendo sottoposta anch'essa a certe condizioni di equilibrio, non ha bisogno di energia. Ma perché un essere vivente sia stabile, anche quando poggia su una panchina o sul sedile di una carrozza, occorre una tensione di forze che noi, normalmente, non percepiamo più di quanto si possa percepire, giacché agisce in tutte le direzioni, la pressione atmosferica. Forse, se dentro di noi si creasse il vuoto e fossimo lasciati alla mercé della pressione dell'aria, avvertiremmo per un istante, l'istante precedente la nostra distruzione, il peso terribile che niente più neutralizzerebbe. Allo stesso modo, quando dentro di noi si spalancano gli abissi della malattia e della morte e non abbiamo più nulla da opporre alla violenza con cui il mondo e il nostro stesso corpo ci si avventano contro, allora persino sostenere il pensiero dei nostri muscoli, il brivido che devasta le nostre ossa, persino stare immobili in quella che, di solito, riteniamo la semplice posizione negativa d'una cosa, esige, se vogliamo che la testa resti dritta e lo sguardo calmo, una carica di energia vitale e diviene oggetto di una lotta estenuante. E se le Grandin ci aveva guardati con tanto stupore, era perché a lui, come agli altri che si trovavano allora a passare, la nonna era apparsa, nel fiacre dove sembrava che stesse seduta, sul punto di sprofondare, di scivolare nell'abisso, disperatamente aggrappata ai cuscini che potevano appena trattenere il suo corpo precipite, i capelli in disordine, l'occhio smarrito, incapace ormai di far fronte all'assalto delle immagini che la sua pupilla non riusciva più a sopportare. Era apparsa, benché seduta al mio fianco, tutta immersa nel mondo sconosciuto dove già aveva ricevuto i colpi di cui recava le tracce quando, poco prima, ai Champs-Élysées, l'avevo vista col cappello, il viso, il cappotto sconvolti dalla mano dell'angelo invisibile col quale aveva lottato. Ho pensato, poi, che il momento dell'attacco non doveva aver colto del tutto di sorpresa la nonna, che forse, anzi, l'aveva previsto da tempo, era vissuta nella sua attesa. Certo non aveva saputo quando sarebbe arrivato quel momento fatale, era stata incerta, come gli amanti che un dubbio dello stesso genere induce, di volta in volta, a concepire speranze irragionevoli e sospetti ingiustificati sulla fedeltà dell'amata. Ma è raro che malattie gravi come quella che, alla fine, l'aveva colpita in piena faccia, non eleggano per lungo tempo domicilio presso il malato prima di ucciderlo e che, durante tale periodo, non si facciano conoscere abbastanza presto da lui come un vicino o un inquilino socievole. È una conoscenza terribile, meno per le sofferenze di cui è portatrice che per la strana novità delle restrizioni definitive che impone alla nostra vita. Ci si vede morire, in questi casi, non nell'istante preciso della morte, ma mesi o a volte anni prima, da quando essa è venuta orribilmente ad abitare in noi. La malata fa conoscenza con l'estraneo che sente andare e venire nel suo cervello. Non lo conosce di vista, si capisce, ma dai rumori che regolarmente gli sente fare deduce le sue abitudini. Che sia un malfattore. Un mattino non lo sente più. Se n'è andato. Ah, se fosse per sempre! La sera è già di ritorno. Quali saranno i suoi disegni? Il medico curante, inquisito in proposito, risponde, come un'amante adorata, con giuramenti che un giorno vengono creduti, il giorno dopo messi in dubbio. Del resto, più che la parte dell'amante, il medico sostiene quella dei domestici sottoposti a interrogatorio. Essi non sono che dei terzi, quella che incalziamo, che sospettiamo stia per tradirci, non è altri che la vita. E pur sentendo che non è più la stessa, noi crediamo ancora in lei, o perlomeno rimaniamo nel dubbio fino al giorno in cui, da ultimo, ci abbandona. Misi la nonna nell'ascensore del professor Re, e questi, un istante dopo, ci veniva incontro e ci faceva entrare nel suo studio. Ma una volta che fummo là, malgrado la fretta, i suoi modi arroganti scomparvero per cedere il posto, tanta è la forza delle abitudini, a quelli della gentilezza, se non dell'allegria, nei confronti del malato. Sapendo che la nonna era appassionata di letteratura, ed essendolo a sua volta, si mise a citarle per 2 o 3 minuti alcuni bei versi intonati a quell'estate radiosa. L'aveva fatta sedere in una poltrona, collocandosi lui contro luce in modo da vederla bene. L'esame fu minuzioso, tanto che dovette uscire un attimo. Si prolungò ancora. Quando finì, il professore riprese, anche se il quarto d'ora era già quasi trascorso, a fare citazioni a beneficio della nonna. Le rivolse perfino alcune battute scherzose, abbastanza brillanti, che avrei ascoltate più volentieri in un'altra occasione, ma che mi rassicurarono del tutto grazie al tono divertito con cui furono pronunciate. Mi ricordai allora che il presidente del Senato, Fayer, aveva avuto diversi anni prima un falso attacco e che, per la costernazione dei suoi concorrenti, 3 giorni dopo si era già rimesso al punto da riassumere le sue funzioni e preparava, anzi, si diceva, una candidatura più o meno lontana alla presidenza della Repubblica. La mia fiducia in una pronta guarigione della nonna venne ulteriormente rafforzata dal fatto che, mentre ricordavo l'esempio di Fayer, fui distolto dall'idea di quel raffronto da una franca risata che concluse una battuta del professor Re. Su questo, egli cavò di tasca l'orologio, aggrottò febbrilmente il sopracciglio nel vedere che era in ritardo di 5 minuti e, salutandoci, già suonava perché gli portassero seduta stante l'abito da sera. Lasciai che la nonna mi precedesse, richiusi la porta e chiesi la verità all'uomo di scienza. «Vostra nonna è spacciata», mi disse il professore. «L'attacco è provocato dall'uremia. L'uremia in sé non è a rigore una malattia mortale, ma il caso mi sembra disperato. È superfluo precisare che spero di sbagliarmi. Del resto, con Cottard siete in ottime mani. Vi prego di scusarmi», aggiunse, vedendo entrare una cameriera col suo abito da sera sul braccio. «Come sapete, sono a pranzo dal ministro del commercio e prima devo fare una visita. Ah, la vita non è tutta rose e fiori, come si crede alla vostra età!» E mi tese graziosamente la mano. Avevo richiuso la porta e un domestico ci stava accompagnando, la nonna e me, in anticamera, quando udimmo alte grida di collera. La cameriera si era dimenticata di fare gli occhielli per le decorazioni. Ci sarebbero voluti altri 10 minuti. Il professore continuava a tempestare mentre io, sul pianerottolo, guardavo la mia nonna che era spacciata. ogni uomo è ben solo. Ci rimettemmo in cammino verso casa.